Come annunciato, siamo riusciti a entrare in collegamento con la Val di Susa. C'è un compagno che ci racconta cosa sta avvenendo, visto che sui giornali troviamo molti resoconti falsi, questa schematizzazione tra manifestanti buoni e manifestanti cattivi, insomma le solite falsità che aiutano a gestire un conflitto che invece sembra non volersi ridurre. Allora, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ennesima giornata di iniziativa e di lotta, diciamo così, per il campeggio No TAV, che ormai va avanti dalla scorsa settimana. Questa settimana, oggi invece, i manifestanti, il campeggio, i comitati No TAV, insomma, stanno portando avanti un'iniziativa nei confronti di una delle imprese che si occupa degli appalti nei cantieri, nel cantiere che verrà aperto. Stiamo parlando praticamente della Italcolge, una società di proprietà di un paio di imprenditori di origine calabrese che si sono trasferiti qui negli anni 70. Questa mattina il campeggio, insieme ai militanti dei comitati No TAV, hanno praticamente inscenato un presidio di fronte ai cantieri di questa società in Val Susa, insomma, distribuendo anche un volantino molto, molto duro, dove si attaccano innanzitutto i responsabili di questa impresa e poi anche dove si invita gli operai a smettere di lavorare per le ferrovie dello Stato, che hanno dato appunto, e per il Ministero degli Interni, al quale prestano praticamente le ruspe, i camion e anche le scavatrici che sono servite nel corso dello sgombero per abbattere i presidi dei militanti No TAV. In particolare, diciamo così, questa società ieri poi è stata oggetto, l'altro ieri è stata oggetto di un attentato incendiario che è stato realizzato praticamente esattamente il giorno prima di questa iniziativa, e sulle cronache, diciamo così, locali ma anche nazionali si dà ampio spazio a questo gesto, ovviamente con il chiaro intento di criminalizzare il movimento No TAV. In particolare i giornali proprio tra ieri e oggi hanno dato ampio spazio non solo a questi attentati incendiari nei confronti dei camion, di alcuni camion di questa impresa, ma anche alla presenza di ex appartenenti alle formazioni armate degli anni 70 e che oggi, diciamo così, scontate le pene, si sono reintrodotti nel tessuto sociale. Molti di questi fanno parte anche dei comitati No TAV. C'è quindi questa campagna generale di criminalizzazione, la quale comunque i comitati, con il supporto del campeggio, al quale partecipano anche molti giovani compagni di tante altre città, hanno risposto ieri con una conferenza stampa in cui invece denunciavano evidentemente il tentativo, diciamo così, mettere un ennesimo tassello nella campagna di criminalizzazione. Queste società, in particolare la Italcolge, ha ricevuto da pochi mesi praticamente una serie di appalti dal Ministero degli Interni e delle Ferrovie dello Stato per realizzare dei lavori, e in particolare affitta o, diciamo così, presta i mezzi pesanti generalmente dedicati all'edilizia per realizzare opere all'interno del fortino. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Qui a Roma abbiamo assistito pure a un ulteriore tentativo di criminalizzazione, quello di attribuire l'incendio della stazione Tiburtina in qualche modo al movimento No TAV, ma al di là di questi toni propagandistici, appunto, che ricordavi anche te, che risposta stanno avendo queste azioni mirate proprio alle imprese che lavorano nel progetto della TAV? Allora, innanzitutto, diciamo così, queste sono azioni che qui evidentemente si sono fatti da soli. Diciamo così, questa società innanzitutto è una società che nel momento in cui i proprietari sono di origine calabrese, sono stati implicati in una serie di problemi di carattere giudiziario, tra cui quello di essere stati diversi anni fa aver fatto parte di un cartello di 59 imprenditori che gonfiavano praticamente, avevano fatto un accordo per gonfiare i costi degli appalti pubblici, è andata in fallimento ed è stata data praticamente, il curatore fallimentare era un personaggio che praticamente faceva affari con l'acquisto delle società che andavano in fallimento, insomma una zozzeria, diciamo così, e pertanto anche questo tipo di azioni sono un po' etichettate come una vera e propria provocazione, insomma. Tra l'altro queste sono aziende in difficoltà che più di una volta si sono date fuori i mezzi, come denunciano qui i comitati, per riscuotere i soldi delle assicurazioni. Di questo stiamo parlando, queste sono le società che il Ministero degli Interni e le Ferrovie stanno utilizzando per costruire il fortino, non il cantiere, per costruire il fortino. Per quanto riguarda il cantiere, quindi l'inizio dei lavori in TAV, c'è oggi anche la presa di posizione serissima del presidente della commissione antimafia Beppe Pisano, che ieri proprio ha avuto un vertice in cui si stanno studiando delle contromisure, perché esiste il rischio serissimo della infiltrazione dell'andrangheta per la costruzione del tratto Torino-Lione. Ecco, quindi di questo stiamo parlando. I comitati sono settimane ormai da quando è iniziata la resistenza contro lo sgombro, che continuano a dire qui entra l'andrangheta, dalle società a cui stanno appaltando i lavori, a partire da quelle del Fortino, hanno dei legami evidenti, anche perché questo cantiere non si potrà fare per i costi esorbitanti, stanno solo cercando di estorcere soldi pubblici allo Stato. E quindi la reazione è, come al solito, diciamo così, a seconda di chi parli. C'è comunque un movimento che non molla di un centimetro, il campeggio di lotta è un campeggio che è comunque frequentatissimo anche dalle persone che vengono dai paesi circostanti, non solo dai militanti dei comitati no TAV. Gli stessi sentieri che girano intorno al Fortino, insomma, nei quali tra l'altro si può passare, sono praticamente completamente invasi da persone che girano, fanno passeggiate e si avvicinano alle restrizioni, documentano anche lo scempio di questo presidio militare. Ieri siamo andati a visitare l'ex centro archeologico della Maddalena, che è stato completamente devastato dalle restrizioni, dalla presenza delle forze dell'ordine che gettano tra l'altro i loro rifiuti all'esterno delle reti, devastato dai blocchi di cemento che servono, quelli che servono per costruire appunto il basamento delle restrizioni, tant'è che la stessa direttrice del centro archeologico si è dimessa all'indomani del 3 luglio, quando ha visto le immagini della devastazione che hanno subito queste tombe primitive che risalgono al 3000 avanti Cristo. Questo tanto per dirne una. La stessa Italcoggio utilizza per esempio una discarica a ridosso della ferrovia, dove ci mette dentro un po' di tutto, e che utilizzerà tra l'altro a pagamento per gettare i detriti dei primi scavi che verranno effettuati, se verranno effettuati, insomma. Questa è un po' la situazione. Senti, ti volevo fare un'altra domanda in conclusione. Un altro dei temi su cui insistono i giornali è questa presunta divisione tra manifestanti buoni, che sarebbero poi gli abitanti locali di quelle zone, manifestanti cattivi venuti dall'esterno, violenti, provocatori, infiltrati. Questa, diciamo, operazione mediatica, che rientra appunto in quell'operazione di criminalizzazione, lì come viene recepita? È totalmente costruita dai media? Ci sono delle figure che stanno speculando sulla questione del movimento No TAV? Insomma, che considerazioni c'hai da fare su questo aspetto? Ho già parlato ieri, insomma, anche perché spiegavo che il campeggio è a ridosso della centrale elettrica, quindi ci sono proprio poche metri di distanza, quindi i primi giorni di campeggio sono stati di confronto serio nei confronti delle forze dell'ordine e sono arroccate lì dentro. Dico una cosa, quando l'altro ieri è venuto giù il cancello di accesso, uno dei due cancelli di accesso alla centrale elettrica, appunto, in testa c'erano gli alpini. Di fronte a questo cancello, a guardare, ad assistere, c'erano gli alpini, mentre per tutta la giornata, insomma, persone a vario titolo hanno scavato sotto questi blocchi di cemento, che sono quelli che si vedono anche nelle autostrade, insomma, e che sorreggevano e servivano proprio da supporto a questo cancello. Hanno scavato dalla mattina e c'era poi praticamente il primo pomeriggio questo cancello è venuto giù nel boato generale, insomma. Quindi questo per dirla tutta. Ci sono pratiche diverse, ci sono sicuramente sensibilità diverse, il cappello è anche un modo per confrontare tutti questi modi di essere, E terminata l'azione si è venuti qui al mercato di Susa, un mercato che è uno dei più importanti della zona, a fare un'iniziativa innanzitutto a distribuire questo volantino che denuncia un po' i tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno della valle, vista però dal punto di vista dei manifestanti, ed è quel volantino che vi dicevo che attacca anche gli operai, che dice che questi operai non devono lavorare, non devono prestare servizi in queste opere. Tra l'altro c'è una questione importante, insomma, le prime immagini, quelle che si sono viste dello sgombro della Maddalena, insomma, c'è una denuncia a carico fatta da manifestanti nei confronti dell'operaio che lavorava con la squadra, perché più di una volta ha indugiato verso i manifestanti, insomma, con questa trivella, insomma, questo è. E quindi nel mercato, dicevo, striscioni, bandiere notate, interventi e musica, ma soprattutto un banchetto che espone i prodotti genuini della valle, e sono tutti i residui di lacrimogeni che in questi ultimi giorni sono stati raccolti nel corso delle camminate sui sentieri, quando si va, diciamo così, a fare pressione sulle barriere, se ne raccolgono sempre a decine, e oggi sono stati portati qui in piazza e vengono distribuiti, diciamo così, gratuitamente e simbolicamente alle persone del luogo, insomma. Quindi questa è un po' l'iniziativa di oggi. Nel corso del pomeriggio invece continueranno altre attività, fra cui delle iniziative di iscrizione, proiezione di video sul campeggio, e poi ci saranno domani iniziative nei paesi circostanti, insomma. Senti, un'ultimissima domanda: la presenza degli alpini ha cambiato qualcosa? Che percezione c'è da parte vostra con queste nuove presenze militari? La presenza degli alpini è cambiata, nel senso che gli alpini fanno quel lavoro che le forze dell'ordine non riescono più a fare, insomma, e cioè quello di pattugliare il territorio, soprattutto i sentieri di montagna, e provare a intercettare tutti che magari si avvicinano troppo al fortino, insomma. Munizioni di telecamera, una presenza costante, insomma, cioè, ci sono stati già dei fermi in cui non c'è stata un particolare arroganza da parte di queste pattuglie, però sicuramente una presenza seria che va tenuta in considerazione, insomma. Te li trovi che si sbucano le spalle, che raccontavano così, insomma, senza accorgere, e fanno il lavoro che non riescono a fare le forze dell'ordine, che cominciano anche a mostrare dei segni di nervosismo enorme, insomma. Ok, ricordiamo che gli alpini sono tra l'altro un corpo scelto dell'esercito italiano, quello che viene mandato anche nelle spedizioni militari all'estero, quindi stiamo parlando, al di là, diciamo, di come vengono dipinti, anche di corpi molto professionali e addestrati da questo punto di vista. Sì, cioè, anche ancora oggi continua la polemica tra gli alpini, tra gli abitanti di Val Susini, che hanno fatto gli alpini, stanno dentro i comitati notab, per esempio l'ANA, l'Associazione Nazionale degli Alpini, il fatto che il presidente dell'ANA si è schierato apertamente con l'invio di questo contingente qui in Val Susa, e questa cosa ha creato una gravissima spaccatura, tant'è che c'è una polemica forte, insomma, tra i notab alpini e i mercenari, così come vengono da loro indicati i mercenari, quindi a prestare il fianco un'opera di carattere mafioso che è il cantiere della TAV. Ok, ti ringrazio moltissimo per gli aggiornamenti. Ovviamente l'impegno da parte nostra è di rimanere continuamente in ascolto con quanto avviene in Val di Susa, quindi anche un invito rivolto a te a continuare ad aggiornarci se ci fossero ulteriori novità. Sì, un'ultima cosa: il campeggio si prepara a costruire la manifestazione del 30, del 30 di luglio, che sarà la giornata di chiusura di questo campeggio, una marcia che non è nazionale come era stato ipotizzato all'inizio, è però una marcia che partirà dal paese di Saglione, che molti compagni e compagne conoscono a Roma, fino alla baita che è posta sotto alla Maddalena. Il presidio però, comunque il campeggio però, si trasformerà in un presidio permanente e già da questa sera, domani, compagni e le compagne del campeggio, ma anche i comitati NOTAV, cominceranno a predisporre un giro di iniziative per mantenere comunque questo presidio fisso a ridosso della centralezza come base non solo di elaborazione ma anche di partenza per tutte le iniziative che andranno avanti nel corso dell'estate. Sono delle iniziative che hanno come obiettivo quello di impedire l'ampliamento dei lavori. Va bene, ti ringrazio, ci sarà comunque sicuramente occasione di sentirci anche prima della manifestazione del 30. Ciao, buona giornata e buon proseguimento.